Allora, rieccoci, sì. Abbiamo ristabilito il contatto, ci senti? Sì. Allora, vai, raccontaci allora, un po' quello che sta succedendo, sì, a Torino. Per chi magari non è della città, visto che sta facendo una diretta con Roma, volevo magari dire due parole di introduzione su cosa è questa casa. Questa casa, che sta appunto in Via Lanino, per chi non conoscesse Torino, si trova all'interno del quartiere di Porta Palazzo, dietro al mercato rionale, che è uno dei più grandi d'Europa. A cielo aperto, Porta Palazzo è sempre stato un quartiere, diciamo così, malfamato, soprattutto negli anni passati, e in questi anni è interessato da un processo di riqualificazione molto forte, perché appunto è molto vicino al centro, per cui è una zona che diciamo così, per gli affaristi è molto appetibile, e in questa zona, come in altre di Torino, c'è una sorta di sinergia tra appunto chi specula per una questione economica. All'interno di questa zona invece l'amministrazione che sostanzialmente prova appunto a mettere in atto attraverso dei nuovi strumenti un'altra governance in questi territori che sono appunto storicamente, come dicevo prima, molto difficili. Basti pensare che diciamo così nei dintorni del mercato si può facilmente immaginare di come l'economia informale sia quella che regna, no? Per cui con tutto quello che porta di problemi per l'ordine pubblico. All'interno di questo contesto è stata occupata una casa 5 anni fa, avrebbe fatto 5 anni a inizio dicembre, e nel 2011 da un gruppo di compagni e un gruppo di gente che non aveva la casa, tra chi appunto era stato sfrattato, per cui lo si era conosciuto tramite la lotta di sfratti, invece altri ragazzi che si erano conosciuti in altri modi, per esempio alcuni erano usciti dal CIE, per cui dei ragazzi senza documenti. Questa casa è stata appunto occupata 5 anni fa questa mattina è arrivata lo sgombero. Da quanto abbiamo capito, perché noi appunto siamo fuori, i compagni che erano dentro sono stati tutti portati in questura, cioè tutta la gente che era dentro è stata tutta portata in questura, però ci sono insomma riusciti a dire che la polizia appunto è arrivata dal tetto, perché hanno fatto un'azione coordinata entrando sia da sopra che da sotto, per cui non c'è stata vanificando di fatto qualsiasi possibilità di resistenza sul tetto. E la situazione che adesso siamo diciamo così riusciti a ottenere, che qualcuno possa salire su per appunto prendere i mobili, gli effetti personali della gente che stava in questa casa, e niente, vediamo. Poi noi abbiamo lanciato un appuntamento alle 10:30 davanti alla casa occupata, siamo davanti ai cordoni di Celere, per farci capire, e insomma poi in base a questo vedremo un po' cosa fare, come muoverci. Va bene, il quadro che ci hai fatto è molto molto, insomma, purtroppo come posso dire, è completo. Certo, registriamo ancora una volta la repressione che si registra soprattutto a Torino, dove c'è un ampio movimento per il diritto all'abitare, di occupazioni, squat e quant'altro. A questo punto noi rilanciamo, ovviamente da qui arriva la nostra solidarietà, l'appuntamento alle 10:30, noi magari eventualmente possiamo risentirci più tardi, con la speranza che non ci sia, esatto, per gli sviluppi, e con la speranza che non ci siano forzature soprattutto dalla parte le forze dell'ordine. Ancora grazie, un saluto. Va bene, grazie a voi. Ciao, a presto. Un saluto, ciao.